nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Mauro, volevo dirti che poco fa mi ha scritto una mail l'Agenzia delle Entrate. No, beh, Deborah, buongiorno, ma non l'ha scritta solo a te. Ah no? No. Dici perché... che l'ha scritta anche a te? L'ha scritta in generale, perché è un comunicato che hanno fatto. Ma perché è stato fatto questo comunicato? Diamolo qua, proprio in anteprima mondiale. Oh, che riguarda la rottamazione delle cartelle, anzi le rottamazioni delle cartelle. Allora, perché l'evento di oggi è che, cara Deborah, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del decreto legge 148, finalmente convertito in legge. Renderei solenne questo momento, eccolo. Gaudium magnum, habemus papam. Ecco, no, per carità. Eh no, quando ci vuole. No, vabbè, ma per restare al latino, si dice dal primo dicembre e dal 30 novembre che aspettiamo sì. La ceralacca su questo provvedimento. Brava, perché infatti proprio il 30 novembre era stata quella data un po' critica in cui le persone che volevano pagare la terza rata dicevano ma pago o aspetto il 7 dicembre, ma il 7 dicembre ci sarà una norma che mi salva. E c'ho la provvista per pagare questa allora, rata. Allora, la norma che salva i pagamenti entro il 7, che poi è domani, per carità, entro il 7 di dicembre. Ed è pure festa a Milano, per cui non è che le complicazioni siano terminate. No, però quella norma lì adesso c'è. La norma che non c'era adesso c'è, è la conversione definitiva. Il testo della legge di conversione e il testo coordinato benissimo. Sono in Gazzetta Ufficiale. Io li ho qua, li mostro anche ai nostri amici che ci seguono su Facebook. Avranno un brivido che sta percorrendo la loro schiena in questo momento. D'altra parte ognuno mostra così, quello che più gli aggrada. Esatto, ma invece, il comunicato dell'Agenzia delle Entrate che cosa riguarda? Oh, il comunicato riguarda le due rottamazioni, perché come sai noi abbiamo una prima rottamazione e una seconda rottamazione in corso. Esatto. Allora, il comunicato è dedicato in gran parte, ma lo possiamo forse anche allegare alla nostra pagina di Due di Denari su Facebook, se qualcuno adesso è cultore di questa letteratura particolare. Ma ce ne sono tanti, lo sai, tanti piccoli magari artigiani, tanti piccoli professionisti che usufruiscono di questa opportunità, vogliono sapere tutto e anche subito. E allora, guarda, ti posso dire che il comunicato in larghissima parte si occupa della rottamazione numero 2, segnalando che c'è un nuovo modulo per l'adesione. E poi, nella parte finale, fa riferimento proprio a questa proroga dal 30 di novembre al 7 di dicembre. Guarda, intanto io mi occupo di far circolare tutto sui nostri social network, poi vediamo se l'Agenzia delle Entrate ci porta almeno a prendere un caffè. Detto ciò, però, non è questo il tema di questa mattina, perché noi invece stamattina parliamo di un'altra simpatica scadenza che è un po' più là, una settimana dopo. Sì. Ecco, quindi segnate sull'agenda perché ce ne abbiamo una al giorno. Sarebbe il 16 di dicembre, ma intanto diamo una buona notizia, poiché è sabato, si va al 18. Certo. E che cosa bisogna pagare il 18? Perché c'è sempre un'imposta da pagare, cara Deborah, come una sai. Per te, una per me. E allora abbiamo chiamato Dario Acquaro del Sole 24 Ore e Mirko Mion, presidente dell'AGEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti, perché ci rendano edotti sul bello e il meno bello del saldo IMU e TASI. Ottimo. Sei contenta? Sono molto contenta perché intanto è una scadenza fiscale che non riguarda molti contribuenti, quelli che hanno l'abitazione principale, quindi quantomeno a queste persone diamo un momentino di tregua. Detto questo, però, siccome gli italiani sono molto amanti del mattone e molte seconde case in circolo, non è detto che siano necessariamente castelli o dimore di lusso, però insomma in molti devono invece fare questo versamento. Immaginiamo che abbiate anche diverse perplessità e allora i numeri sono quelli abituali. Sì. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma se volete mandarci un SMS oppure un messaggio via WhatsApp 349 238 6666. Benissimo, e allora partiamo. I feel so good come payday. I think of all the things I'm gonna. Senti, ma saldo IMU e TASI, regole e calcoli, questo inserto speciale di norme e tributi vostro del Sole 24 Ore, anche un po' mio, ai nostri amici di Facebook. È uscito in questi giorni, è uscito la settimana scorsa, sì, mi sembra, no? È uscito la settimana scorsa, il 29 di novembre, però segnalo che sul sito del Sole 24 Ore, per gli abbonati al sito o al quotidiano, è ancora disponibile. Andate www.ilsole24ore.com e poi slash, cioè la sbarretta, insomma, ebook, ebook. No, lo dico col K finale perché bravo, fai bene. Però io volevo anche dire che non se c'è siamo qualche tutti tenuti a sapere l'inglese che ha una situazione immobiliare un po' complicata, io qualcuno ne regalo, se mi consenti questa mattina. Ne abbiamo un po' di copie cartacee. Volentieri, mi permetti? Ma certo. E questo riepiloga tutte le regole, esatto, che sono state. Potete anche, se non siete abbonati, il prodotto è disponibile appunto in formato ebook, in formato digitale, ed è acquistabile, quindi con pochi euro, con pochi eurini, come direbbe Alessandro Milan, esatto, è possibile venire in possesso di questo prodotto. Allora, proprio nei giorni scorsi, peraltro qualche tempo fa, c'è stata questa disposizione del Dipartimento delle Finanze e del Ministero dell'Economia che sul proprio sito internet ha come dire, esposto il vademecum del pagamento del saldo IMU e TASI 2017. Intanto la buona notizia è che rispetto all'anno scorso mi pare che i comuni, Dario, cominciamo con te, non abbiano potuto variare le aliquote perché c'era proprio il cosiddetto congelamento, esatto, dei tributi. Ma no? Magari sono arrivate nuove agevolazioni, questo. Anzi, sì. No. Quindi è meglio verificare è sempre. È meglio verificare sempre. In generale, comunque, a livello diciamo nazionale, con la legge di bilancio 2017 non sono state introdotte novità, né se ne prospettano con la legge di bilancio 2018, però perché è importante verificare sempre in vista dell'appuntamento del saldo del 18 dicembre? Perché ci possono essere casi in cui i conti vanno rifatti. Ad esempio, un immobile comprato, venduto, sul quale, oppure sul quale si sono formati i diritti di usufrutto di abitazione, oppure un immobile che è stato assegnato al coniuge separato, o ancora che è passato dallo stato di abitazione principale a quello di seconda casa o viceversa. Quindi è bene magari tenere... avete deciso di acquistare una seconda casa, esatto, allora bisogna ricordarsi tra l'altro che se l'acquisto avviene entro i primi 15 giorni del mese, da quel mese scatta il pagamento, esatto, di IMU e TASI. Quindi questa è un'altra, una regola che rimane sempre fondamentale, una delle poche regole, verrebbe da dire, Dario, che è rimasta stabile in questi anni su IMU e TASI, molte altre sono cambiate. Allora, vogliamo anche interpellare il nostro amico Mirko Mion dell'Associazione Geometri Fiscalisti, che peraltro non invitiamo da un bel po' di tempo, per cui stamattina abbiamo scelto per lui questo bell'argomento sicuramente molto popolare. Mion, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, Deborah. Allora, sì, allora, a parte tutte le eccezioni che abbiamo già indicato più o meno e tutti i suggerimenti che abbiamo dato a quei contribuenti che è bene che facciano un controllo della propria situazione per verificare se pagano l'aliquota dell'anno scorso o seppure devono appunto variare l'importo, ricordiamo quali sono, come dire, un po' le macro aree di riferimento di questa scadenza, perché abbiamo da una parte la considerazione, tutta la considerazione relativa all'abitazione principale, e poi c'è tutto il campo appunto delle agevolazioni, ce lo indicava poco fa anche Dario Acquaro, che bisogna tenere a mente. Ci dica un po' come dobbiamo prendere in considerazione questo argomento. Sì, esattamente. Dobbiamo sempre ricordare questo concetto di abitazione principale perché seppur, come dire, si è stratificata la normativa riguardante l'IMU e poi la TASI, che sostanzialmente insomma sono molto apparentate se non in alcuni specifici casi, colpisce, come dire, colpiva l'abitazione principale ed oggi esenta l'abitazione principale, quindi è importante comprendere che per abitazione principale si intende quell'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Questi due elementi devono coincidere. Per residenza è chiaro a tutti, no? Quindi dove io risiedo all'interno dell'anagrafe del comune, dobbiamo puntualizzare perché quanto riguarda la dimora si dovrà sempre dimostrare, quindi dovranno esserci delle utenze allacciate, quindi la classica utenza dell'Enel piuttosto che del gas. Dicevamo in effetti sì, che poi proprio su questa considerazione si apre un po' una grande macro area che sono tutti quegli immobili che si possono assimilare all'abitazione principale, quindi di fatto usufruiscono di questa esenzione totale del pagamento dell'IMU e della TASI. Diciamo che all'interno di questa prima macro area troviamo la casa coniugale assegnata all'ex coniuge, i residenti all'estero, chiaramente con tutte queste, con diciamo delle particolarità che poi magari esamineremo strada facendo, E l'abitazione in possesso di anziani e disabili, laddove l'anziano disabile sia stato inserito in una struttura, una casa di riposo, è sempre stato peraltro quello un ambito, sì, che ha generato grande incertezza, sul quale ci siamo sempre dovuti soffermare con molti dettagli nelle nostre trasmissioni anche fatte in passato, no? Hai ragione, Deborah, sì, ma infatti Mion, se vogliamo proprio ridare la regola, perché di solito questo è uno degli argomenti che vince il record delle domande alla radio, al Sole 24 Ore, al sito. Allora, il caso dell'anziano che per motivi di salute è oramai stabilmente ricoverato presso una struttura, una residenza assistita, una casa di riposo. Allora lì la regola per IMU e TASI dell'abitazione, che era dell'immobile, che era dell'anziano, qual è? Non c'è posto per carità. Vabbè. L'avevamo preparata, l'abbiamo mandata, naturalmente con grande rispetto nei nostri anziani che necessariamente appunto devono essere ospitati da queste strutture. Mion, però con le imposte sulla casa come si devono regolare? Con le imposte sulla casa i comuni possono considerare, quindi è una facoltà dei comuni, considerare direttamente adibita ad abitazione principale quell'unità immobiliare che viene posseduta a titolo di proprietà, oppure potrebbe essere anche un usufrutto da anziani e disabili che debbono però necessariamente acquisire la residenza nell'istituto dove sono ricoverati. Questo è importante, quindi non è che può mantenere la residenza nella propria abitazione e usufruire di questa agevolazione. Devono essere nello stesso comune, peraltro, la casa di proprietà e la casa di riposo dove l'anziano risiede, no, o non c'entra nulla? No, anche perché insomma, diciamo che le case di riposo, pur essendo ormai in grande aumento, non è che coprano l'intero territorio nazionale da un punto di vista dei comuni. Certo. Anche per i residenti all'estero c'è una puntualizzazione da fare, allora, importante. Allora facciamola subito, facciamola. Perché qua, siccome ce ne sono sempre di più che perché è vero emigrano. Che devo essere, emigrano, devo essere residente all'estero. E quindi iscritto all'AIRE? Iscritto all'AIRE, esatto, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, però l'esonero è condizionato alla percezione di una pensione estera, che deve essere corrispondente al paese di residenza. Per fare un paio di esempi, cioè se io vado a risiedere in Francia e ho una pensione italiana, non posso usufruire di questa agevolazione. Altresì, anche qui abbiamo avuto dei casi dove c'è chi ha lavorato, abbiamo un caso di una persona che ha lavorato in Portogallo e poi è andato a risiedere in Belgio. La pensione, non essendo belga, essendo portoghese, non dà diritto a questo tipo di, diciamo, assimilazione all'abitazione principale. Ma pensa. Quindi se io ho un immobile in Italia, anche se sono iscritto all'AIRE, questo immobile sarà dovuto al pagamento di IMU e TASI. Della TASI, certo. Ecco, sulla TASI, tra l'altro, proprio Angelo ci chiama dalla provincia di Roma. Scrivono degli ascoltatori, infatti. Allora sentiamolo subito. Angelo, benvenuto. Buongiorno. Andiamo ai segreti della tassa sui servizi indivisibili, sì. Senta, la mia richiesta era questa. Io non so chi la TASI, chi è che la deve pagare? Intanto ci dica la sua situazione. Ho due case, una seconda casa e una prima casa. Io non pago l'IMU sulla prima e pago l'IMU sulla seconda. Però non so la TASI che cos'è. Allora, ha presente tutti i lampioni che ci sono magari attorno alla sua abitazione, Angelo? Lei paga anche per quelli, per l'illuminazione notturna della strada, esatto. Lo spazzamento di marciapiedi, eccetera. Ecco, ma allora riepiloghiamo invece, non so se Dario o Mirko Mion vogliono riepilogare intanto la regola generale per i muetasi. Dario? Allora, parliamo delle abitazioni. La TASI è diventata quasi un doppione dell'IMU, nel senso che segue, per quanto riguarda l'abitazione principale, la stessa agevolazione, cioè l'esenzione per quindi le case. Non si paga sull'abitazione principale. Sì, esatto, l'abitazione principale, tranne quelle in categoria A1, A8, A9. Quindi ville e castelli. Ville, castelli e dimore signorili. Di lusso, sì. Per quanto riguarda la seconda casa, stesso discorso. Si paga l'IMU, si paga la TASI. Quindi penso che il nostro ascoltatore sulla seconda casa debba pagare anche la TASI. Ecco, a volte i comuni, Dario, fanno una sorta di esenzione, quindi è sempre bene controllare, cioè se è dovuta l'IMU non è dovuta TASI, è più raro viceversa che io sappia, ma questo viene di solito specificato sui siti del comune. Esatto, perché il chiarisce... tema è capire, non essendoci la regola generale che vale per tutti, ma ognuno fa riferimento alla decisione del proprio sindaco, deve andare a controllare, quindi dici, ecco, tu Mauro, sul sito del comune. Esattamente, è sempre buona norma. Poi c'è il tema sempre che emerge dell'inquilino. Cioè, mettiamo che uno abbia una seconda casa, ma abbia affittato questa seconda casa a un'altra persona. Questa altra persona, cioè gli inquilini, l'inquilino, come si deve regolare? Lo chiedo sia a Mirko mio, anche a Dario. Mirko, vuoi chiarirlo tu questo aspetto? L'inquilino, innanzitutto, se un inquilino che può equiparare la sua abitazione ad abitazione principale, perché un inquilino che risiede, dimora all'interno di questa abitazione sarà completamente esente, perché rientra nella fattispecie di cui abbiamo parlato inizialmente dell'abitazione principale. Se invece è un inquilino che non ha residenza e occupa quell'immobile per un periodo superiore ai 6 mesi, sarà tenuto al pagamento della quota di sua spettanza, che sarà determinata dal comune e darà tra il 10 e il 30%. Questo in solo, caso... scusami, prego. No, prego. Mario. No, dicevo, questo solo nel caso in cui quella casa dove lui risiede, che ha preso in affitto, non sia la sua dimora principale. Esattamente, perché altrimenti, come dicevamo, è assimilata all'abitazione principale, quindi è completamente esente. E paga esclusivamente, sarà pagata esclusivamente da parte del proprietario dell'immobile, perché la si ritroverà come seconda abitazione per una quota pari al 90% della TASI dovuta, della percentuale dell'imposta dovuta. Saldo IMU, TASI, come dobbiamo fare per il pagamento? Ci arriva un bollettino a casa, Mirko, o come succede per la TARI, della quale parleremo nella seconda parte della trasmissione, oppure dobbiamo fare noi, procurarci un F24, compilarlo, fare da noi i calcoli? Ma allora, i comuni generalmente inviano un bollettino postale per il pagamento, altrimenti, insomma, generalmente chi fa riferimento per il calcolo, anche perché, come abbiamo visto, è vero che si è stratificata, ma laddove ci siano delle modifiche, o perché si è assimilata all'abitazione principale, o perché abbiamo venduto, abbiamo comprato perdendo magari la fattispecie particolare dell'agevolazione, si compila solitamente l'F24 con i tributi segnalati con codici diversi a seconda della tipologia di pagamento. Intanto stanno arrivando, e adesso magari le sottoporremo ai nostri ospiti, molte domande da parte di molti ascoltatori che hanno delle questioni un po' complicate, perché banalmente, tra virgolette, stanno ricevendo in eredità degli appartamenti magari da genitori che sono mancati, e quindi lì, ecco, che si genera tutta la questione della disciplina del pagamento di queste due scadenze, perché magari sono appartamenti frazionati fra più eredi, per cui non si capisce bene come devono essere anche condivise queste imposte, queste tasse. C'è Fabrizio, ad esempio, che ci chiama dalla provincia di Vicenza, che ha un caso, qui il parente non è mancato fortunatamente, però si è generata una situazione immobiliare diversa. Buongiorno Nuova. Fabrizio, ci dica. Mauro, buongiorno Deborah, grazie per farmi intervenire. Allora, la mia domanda è molto semplice. Mia suocera anziana, per motivi di salute, ha lasciato il suo appartamento libero e è venuto ad abitare con me, con mia moglie. Così possiamo tenerla sotto controllo, certo, diciamo. Sì, certo. Questo appartamento è di sua proprietà ed è vuoto e libero. Io adesso, per i mesi, lei è residente da me da qualche mese, per i mesi e per il futuro, io dovrò pagare questa tassa per questo appartamento, o, visto che mia suocera ha una pensione, proprio la minima pensione, viene esentata per motivi di reddito? Allora, le facciamo rispondere direttamente da Mirko Mion. Mirko. Purtroppo questo è un caso dove la normativa è abbastanza rigida, e siccome la suocera del signor Fabrizio, dell'ascoltatore, non ha non ritrova, non si ritrova nei tre elementi, cioè quello della proprietà, residenza e domicilio nell'abitazione, sarà costretta al pagamento di IMU e TASI. Se poi ci fossero delle agevolazioni particolari, perché diceva che ha una pensione minima, legate all'indicatore ISEE, questo bisogna andarlo a vedere all'interno della delibera. Infatti quello volevo chiedere. Potrebbe andare un po' a sfrugugliare nella delibera comunale se esiste qualche agevolazione particolare per indicatori ISEE. Però questo attiene alla scelta appunto sempre dell'amministrazione comunale. Dell'amministrazione comunale. Comunque, da un punto di vista della norma a carattere generale, non sussistendo quei tre principi che ormai abbiamo citato più volte, la suocera del signor Fabrizio dovrà andare alla cassa con il saldo del 18 di dicembre. Ho ereditato un appartamento insieme a mio fratello, ci racconta Sonia da Merano. Recentemente ho ricevuto una simpatica cartella per pagare la mia parte di IMU. Adesso però mio fratello ha deciso di acquistare lui l'appartamento, lo farà il 22 dicembre. Devo comunque pagare questa rata di IMU? Penso proprio di sì, perché va a finire nella seconda quindicina di dicembre. Io guardo Dario e penso che sia proprio così. Purtroppo il 22 di dicembre cade oltre il giorno 15. Si faccia regalare due panettoni Sonia da suo fratello per ricompensare. Però. È così Dario, sì, giusto? A proposito è importante ricordare che IMU e TASI devono essere pagate dagli eredi anche se la denuncia di successione non è stata ancora presentata. Quindi la disciplina, insomma, dei tributi non contiene regole specifiche per gli immobili ereditati e quindi si fa riferimento ai criteri civilistici ordinari. Ma quindi facci capire, significa che poniamo, essendo mancato il proprietario, e il giorno, che so, 18 di luglio, uno va a pagare comunque il saldo anche se ha tuttora in corso la successione non ancora presentata perché ha un altro semestre di tempo e deve cominciare il conto da agosto, perché il 18 viene dopo il giorno 15, e funziona anche così. Anche se non ha presentato la denuncia ufficialmente, insomma. Quindi gli eredi sono tenuti a pagare. Poi si calcola dal giorno del decesso, ecco, diciamola brutalmente. Così. Diciamolo così, brutalmente mi sembra l'aggettivo adatto. Questo è. L'avverbio bene. Adatto. Brutalmente io vi devo dire che sono quasi le 11.30, caro Mauro. Non volete prendervi una pausa? Ma come vola il tempo quando ci si diverte a parlare di tasse. E allora, guarda Deborah, ti lasciamo invece un po' di tempo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, potete comunque chiamarci, telefonarci, scriverci SMS, WhatsApp anche durante questa breve interruzione pubblicitaria, e poi ascoltate invece con la dovuta attenzione le informazioni sui mercati, perché adesso Deborah le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Dove eravamo rimasti? Non è che possiamo far finta. Abbiano la possibilità in automatico di verificare dove la tassa è stata applicata in maniera errata e poter restituire direttamente ai cittadini quel surplus di tasse che hanno pagato. Credo sia un diritto dei cittadini, non credo nemmeno debbano fare una contestazione. Eh sì, io gli sono andata sopra, ma abbiamo ripescato le dichiarazioni del presidente dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni d'Italia, Antonio De Caro, e quelle che aveva rilasciato proprio a noi il 14 novembre scorso, quando aveva promesso, si era un po' sbilanciato nel dire, insomma, che per la Tari non dovuta. Sì. Esatto. Ecco, allora precisiamo, stiamo aprendo una parentesi importante. Certo. Non parliamo per qualche minuto di IMU e TASI, parliamo di Tari, quindi la tassa rifiuti. Allora, in molti comuni, molti non sappiamo dirvi quanto, perché poi ogni comune ha agito secondo la sua autonomia, è stata calcolata male questa imposta, questa tassa sui rifiuti, e allora c'è un eccesso di pagamento. I comuni, ha promesso il presidente dell'ANCI, comunicheranno ai cittadini le modalità per il rimborso. Tenete presente che poi il Ministero dell'Economia è intervenuto con una sua circolare e ha detto che però dovrà essere precisato da parte del richiedente, ad esempio a Milano è stato pagato in eccesso, dovrà essere precisato quanto è stato pagato in eccesso, per quali anni, per quali porzioni, quindi la cosa si riferisce alle cosiddette pertinenze, box, garage, cantine, soffitte, cantine, eccetera. E allora cominciate a tenere da parte le carte, state lì, non abbiamo ancora dopodiché vi scoraggerete dalla modalità scelta dal vostro comune, non richiederete niente. Beh, diciamo che per un appartamento no, guarda, vale Deborah, io dico questo, secondo i calcoli che abbiamo fatto al Sole 24 Ore, abbiamo presentato proprio anche sul quotidiano, se sono più annualità, insomma, balla anche qualche centinaio di euro, quindi non è proprio una cifra per cui scoraggiarsi, vale l'impegno di mettersi lì e cercare le carte dei pagamenti degli ultimi assolutamente anni. Assolutamente. Un'altra informazione di servizio la posso dare io, perché ho questo bel volumino giallo in mano che in adesso mostro, in anteprima mondiale anche questa. Ma caspita, ma esce domani quello. Hai visto? Esatto, abbiamo dato il testè uscito, comunicato dall'Agenzia delle Entrate, questa era un'anteprima mondiale perché è uscito da poco, ma questa è veramente mondialissima, planetaria direi, che sì, è proprio un'anteprima in tutto l'universo. Ho in mano la seconda uscita di Nuovo Risparmio, una guida pratica per gestire i tuoi soldi. Il tema di questa uscita settimanale è il denaro e la tecnologia, quindi dal pagare con la carta di credito e il bancomat ogni spesa al mondo pazzesco dei bitcoin, di cui si sta tanto parlando in queste settimane per la loro crescita incontrollabile in termini di quotazioni che stanno avendo. Noi raccomandiamo sempre molta prudenza, ma per chi volesse saperne qualcosa di più, domani c'è la guida. Venduta con il Sole 24 Ore, una guida cartacea, un volumetto di una sessantina di pagine. Che io si lo conclude con la rubrica anche le voci dei risparmiatori delle prestigiose firme Mauro Meazza e Deborah Rosciani. Vabbè, questo però potevamo anche tacerlo, ma io lo consiglio invece questo volumetto seriamente a tutti quelli che come me sono un pochino sempre sospettosi di alcune modalità di pagamento, borsellini elettronici e altri strumenti, insomma hanno fatto grandi sforzi per arrivare allo home banking e lì vorrebbero anche fermarsi. Invece il mondo va avanti. Puoi ripetere, home banking. Come me la aspiri questa H? Sarebbe a dire insomma quel pagamento lì tramite il sito della banca. Esatto. Ma quello per me ha rappresentato una grandissima conquista, volevo fermarmi lì, invece purtroppo mi tocca aggiornarmi. Un po' quella che io farò quando mi vedrete circolare in questo palazzo con una legge di bilancio, un documento di 500 pagine. Guarda, se vuoi intanto ti passo il decreto legge. Te lo puoi anche tenere, andiamo ai nostri ascoltatori invece sulle questioni di questa mattina. Abbiamo appunto ancora la scadenza IMU-TASI per il 18 dicembre, vediamo un po' Sergio da Roma che cosa ha bisogno di sapere. Sergio, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io ho un quesito assolutamente rapido e veloce. Sergio, se si protegga un po' perché sento dei suoi amici che stanno facendo un po' di confusione lì vicino a lei. Le stavo dicendo, la mia situazione è abbastanza semplice e rapida come quesito, e però nessuno riesce a chiarirmelo. Ante legislatura Monti, a monte, abbiamo due immobili di proprietà, sia io che mia moglie, tutte e due nel comune di Roma, in due municipi diversi. Siamo residenti, lei nella sua abitazione ed io nella mia. Ante Monti, per me quella era prima casa. Successivamente alla legislatura di Monti, per il fatto che io sia sposato con una persona che ha già un immobile nel comune di Roma, mi è passata seconda casa. Sì. Alla stessa maniera, essendo proprietario del 33% di una casa ereditata da mia madre, avendola data in uso esclusivo ai miei familiari, Ante Monti io non la pagavo come seconda casa, post legislatura Monti sembra che il commercialista insista nel dire che anche quel 33% è seconda casa, perché è decaduto quel famoso articolo che, dandola in concessione ad uso esclusivo diretto a familiare diretto, nel caso mio i miei fratelli, non esisteva più questa cosa. Il quesito è se è vero o no, perché non ci capisco più niente. A Sergio, aspetti lì, allora abbiamo capito che se mai dovesse avere l'infausta idea di ricandidarsi, lei Monti non lo voterà mai più, perché non è stato neanche votato all'epoca, sì, naturalmente, il famoso governo tecnico. Il famoso governo tecnico della famosa estate dello spread, poi l'autunno riforma Fornero e tutto, chi ne ha più eccetera, ne metta, eccetera. Ma vedo che insomma anche in termini di proprietà immobiliari noi non avevamo dato così tanta enfasi alle misure prese in questo contesto. Ma il cosiddetto decreto legge Salva Italia. Salva Italia. Allora, Mirko Mion, possiamo aiutare l'ascoltatore? Beh, sicuramente partendo dalla seconda considerazione, la seconda richiesta, quella dell'abitazione di proprietà in quota per il 33%, esatto. Sicuramente su questo non c'è dubbio, è una seconda abitazione in quanto non ha né residenza né dimora in questa abitazione, mentre invece se ho ben capito si tratta di due immobili all'interno dello stesso comune di proprietà di questi due coniugi che con la normativa vigente possono essere considerati, in quanto all'interno dello stesso comune attualmente, entrambi abitazioni principali, quindi esenti dal pagamento di IMU e TASI. Ok, quindi c'è una buona e una cattiva notizia in un certo senso per l'ascoltatore che ci ha chiamato, per Sergio da Roma. Cioè, sì, la parte cattiva è quella che sulla quota, sulla casa, ancorché data ai fratelli, su quella quota del 33% sarà dovuta. Sì, perché è intervenuta la normativa che prevedeva appunto, inizialmente non, se c'erano due immobili anche all'interno dello stesso comune non vigeva questo tipo di regola. Che continua ad esistere chiaramente se gli immobili sono al di fuori, cioè sono in due comuni diversi. Sì. Intanto, sempre a proposito di nuclei familiari, c'è invece un caso un po' diverso di un ascoltatore da Reggio Emilia che ci scrive: ho una casa di proprietà insieme a mia moglie, ma adesso siamo separati. La casa dove lei vive in questo momento, io l'ho affittata io a mio nome, io vivo ancora nella casa di proprietà. Vorrei sapere se devo pagare e chi paga l'IMU e TASI. Mion. Le chiedo scusa perché non ho sentito. No, devo dire che è anche scritto in maniera un po' pasticciata da parte dell'ascoltatore, perché mette insieme un po' tutte le frasi, le virgole un po' se le ha dimenticate. Ho una casa di proprietà insieme a mia moglie, adesso siamo separati. La casa dove vive lei adesso l'ho affittata io a mio nome, mentre lui vive ancora nella sua casa di proprietà. Bello. Quindi non è stata assegnata questa casa a nessuno dei due coniugi. Ammettiamo, esatto, infatti. Deduciamo che sia così. Parte, e quindi sì, questa è una seconda abitazione a tutti gli effetti. Lui l'ha affittata, quindi, e lui risiede in una terza casa, diciamo. Però, visto che poi è tutto a nome suo. E lui che dove loro risiedevano inizialmente, probabilmente nel momento dell'unione sono andati in questa casa e poi l'hanno liberata ed è stata affittata a tutti gli effetti una seconda casa, quindi pagherà l'IMU e la TASI per la quota di competenza della proprietà, di nuovo seconda della delibera comunale. Senti un po', Mauro, ma se ci si dimentica di pagarla l'IMU e la TASI, ci sono delle sanzioni molto pesanti? Ci si può ravvedere entro un tot di tempo? Ci si può sempre ravvedere. Io chiedo la conferma di Dario, ma dovrebbe funzionare la norma che vale un po' genericamente del ravvedimento breve e del ravvedimento lungo, come si chiamano. Esatto, ci sono diversi tipi di ravvedimento. Ecco. Allora, conviene sbrigarsi a ravvedersi, tanto per dire la regola generale. Ma più precisamente, Dario? Allora, c'è quello sprint entro i 14 giorni successivi alla scadenza, c'è quello breve a partire dal 15° giorno e fino a 30 giorni dalla scadenza, c'è quello entro 90 giorni e c'è quello lungo o annuale, diciamo, entro la scadenza della dichiarazione. Quindi a seconda cosa cambia? Uno deve sempre pagare l'importo dovuto, esatto, però cambiano le sanzioni. Cambiano le sanzioni, esatto, 0,1% per ogni giorno di ritardo, oppure 1,5% fisso, oppure 1,67% fisso, insomma fino al 3,75% fisso. Possiamo insomma, dire c'è una scala che poi l'escalation, possiamo dire che se uno si scorda di pagare proprio il giorno 18 o non riesce perché non so, voleva pagare passando dalla banca, magari è fuori, che ne sai, e paga il giorno 19, il ravvedimento consente una sanzione molto contenuta, appunto paga l'importo dovuto, è uno 0,1% per un giorno di ritardo, per un giorno di ritardo, quindi è una cosa affrontabile. Si deve pagare IMU e saldo sempre con questa modalità, ma se uno vuole pagare tutto a giugno o tutto a dicembre e lo comunica, è possibile? A chi la faccio questa domanda? A Dario. Può farlo, può farlo a giugno, anziché pagare l'acconto, può versare tutto il dovuto, insomma. Mm-hmm. Adesso è ancora... A meno che poi nei sei mesi successivi cambi un po' la situazione, che però va... Infatti io mi chiedo, forse non è consigliabile, perché molti ci stanno chiamando, cara Debora, per dire però nel frattempo ho ricevuto questa casa, però nel frattempo mia moglie ed io abbiamo preso appartamenti diversi e strade diverse nella vita, però nel frattempo ho comprato un immobile, quindi forse pagare così in anticipo. Ma perché, insomma, perché al fisco non paghiamoli prima in anticipo? Paghiamolo al momento prendiamoci giusto. Prendiamoci le nostre un po' ripicche nei suoi confronti. No, basta pagare al momento giusto. Sentiamo ma Giulio, no, ma guarda Firenze, che ore sono, ma mi hai perso di vista l'orario. Pazienza. Ma proprio tu, che ma non guarda, aspetti, ti alzi la mattina alle 6 già e ti metti già pensiero, lì in attesa con questo pensiero. Sì, che devo dire solo questa parola. Aspetta che mi concentro. Vai. Traffico! due di denari. Allora, fra un po' torneremo sulla situazione di coniugi che hanno case nello stesso comune ma si separano, o in comuni diversi, eccetera. Detto questo, chi ascoltiamo adesso, Mauro? Gli ultimi minuti dedicati Scegli ai nostri ascoltatori. Abbiamo Giulio o Carlo? Chi è che aspettava da più tempo? Forse Giulio da Firenze? Sì, credo che salutiamo. Giulio. Giulio, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Mi chiamo Giulio, telefono da Firenze. Dunque, mi trovo in una situazione un po' anomala per quanto riguarda le mie conoscenze. Si tratta di questo. In Sicilia, ai pendii dell'Etna, abbiamo ereditato da miei genitori una villetta divisa in tre. Dunque, però uno dei miei fratelli ha comprato metà dell'immobile, sì. E un quarto l'abbiamo preso io e mia sorella. Sì. Diciamo, cosa è successo? Che mostro mio fratello, naturalmente gli eredi, ora sono diventati quattro perché c'è mia nuora, mia cognata e le tre figlie. Si tratta di questo. Dunque, io sono a Firenze e non sono in affitto. Mia sorella è anche lei in affitto, cioè il proprietario però non abita lì da Ferrara, tiene praticamente vendita l'Etna, e gli eredi di Firenze di mio fratello abitano a Catania. Ora, quindi nessuno abita lì. Nessuno abita in questa casa di Zafferana Etnea. Evidentemente no, abbiamo saltuariamente in estate un po' come vacanza, eccetera. Non è la vostra dimora abituale. Principale. Quindi non è la vostra abitazione principale. È proprietaria di una casa a Milano. Sì, sì. Io sono abito a Firenze. Sì, abbiamo capito, Giulio. Quindi il tema qual è? Il tema è questo qua. Io riservo se devo pagare, perché devo pagare anch'io l'IMU e quanto. Io temo di sì. Guardo Dario Acquaro, il collega del Sole 24 Ore, che è qui questa mattina con noi. Sì, i comproprietari pagano in proporzione alla quota, ecco. Adesso non ho capito, c'è stato un decesso, c'è stata un'eredità. Sì, non sono passate di mano più quote, cioè esisteva una quota e questa quota poi è tornata. Prima distribuita tra fratelli, dopodiché essendo mancato un fratello, finita gli eredi. In base alle quote redistribuite, insomma, ricalcolate, si dovrà versare l'IMU o TASI e o TASI dovuta, secondo le regole che sono a Zafferana Etnea, quindi esatto. Siccome abbiamo capito che i vari familiari abitano tutti altrove, andatevi a godere questa casa, Giulio. Controllate che cosa ha stabilito il comune, anche se non basta il sito, con una telefonata proprio agli uffici comunali, esatto, per capire come dovete comportarvi. Esatto. Allora, nel frattempo ci siamo resi conto durante il traffico di aver dato qualche informazione non proprio precisa a proposito del caso affrontato in precedenza. Ne parlavamo appunto con Dario Acquaro e effettivamente anche Mirko Mion si era reso conto, e la situazione si riferisce a condizione del signore che abbiamo ascoltato prima, sì, vero, che, Dario? Lo riepiloghiamo? Esatto. Così almeno passiamo un'informazione corretta nel caso qualcuno si accorga che siamo stati un po' imprecisi. A proposito delle residenze dei due coniugi non separati, ecco, se possono essere sdoppiate o meno. Allora, l'interpretazione ufficiale delle finanze è che se le due residenze sono nello stesso comune, solo una può essere considerata abitazione principale. Quindi il caso era quello del signore di Roma, due case sempre in Roma, comune, ma in due, esatto, sì. Ed è determinante, Dario, che i coniugi siano effettivamente ancora coniugi, non siano separati. Esatto, no, noi parliamo dei coniugi non separati. Non separati, allora, in questo ma caso, se non sono separati, insomma, e hanno due case nello stesso comune, solo una può essere considerata abitazione principale, di solito quella dove abitano, insomma, anche i figli, no? Dove abita la famiglia. Sì, dove risiede stabilmente, esatto, il nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui le residenze siano invece in comuni diversi, allora sì, i benefici possono essere raddoppiati. Ecco, è una lettura delle finanze a cui si è opposta, insomma, parte della giurisprudenza, che però non è concorde in questo, quindi cosa succede? I contribuenti che si attengono alle istruzioni delle finanze fanno sempre bene, non possono essere sanzionati, quindi incontestabile, può essere raddoppiate solo in questo caso. No, sorrido tra perché moglie e marito, non mettere il dito, per carità, ecco. È la sicura incertezza del fisco alla fine. Anche loro hanno la loro autorevole leggerezza. sì. Carlo da Napoli ha una domanda. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Ci dica. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io da tanto tempo che volevo fare questa domanda. Ho ereditato parte di una proprietà che fu danneggiata dal sisma del 1980, novembre 80 e febbraio 81. Sì. E poiché il comune fece in seguito alla giunta edilizia decretò che queste case erano inagibili. E quindi furono abbandonate dopo la morte dei sì. miei genitori. E niente, da allora io sto pagando l'IMU su queste case dichiarate inagibili da loro stessi. Vorrei tuttora... sapere se è sì. giusto che paghi per queste case che io non posso usufruire. E certo, se la richiesta certo. arriva, evidentemente c'è facoltà di poterlo fare da parte del comune. Supponendo che siano tuttora inagibili, però è dovuto. Gli immobili inagibili o inabitabili sono soggetti a IMU, ma con base imponibile ridotta alla metà. Ah. Quindi si paga metà dell'imposta normale, diciamo. La regola, di quello che si pagherebbe se la casa fosse normalmente agibile. La regola è questa. Naturalmente, in questo caso è il comune che ha accertato. Comune, e quando invece, scusami, un immobile non paga assolutamente l'IMU e TASI? Perché c'è il caso del cosiddetto collabente, del collabente, cioè il rudere. Ma in quel capirci. Caso non c'è la rendita catastale, quindi e quindi non ci può essere imposta. È l'immobile senza tetto, per sì. intenderci. Insomma. Senti, allora tu sai che noi abbiamo un centralino molto vivace, molto attivo, cresce famiglia, dall'altra parte Nicola aspetta un bambino e noi le mandiamo un bacione, Rosa invece ha rogitato a fine novembre, per cui dobbiamo risponderle, perché lei vorrebbe sapere, certo. visto che finalmente mette su casa con il suo fidanzato, come deve comportarsi con IMU e TASI, sarà probabilmente la loro prima abitazione. Allora e chiediamo quindi, subito una buona Mirko. Notizia, la facciamo venire qua in diretta la Rosa, oltre che mandarle un bacio. Che... Mirko, cosa possiamo rispondere a Rosa, gentilissima, che salutiamo, esatto. e se non ci fosse Rosa qui a far e da tutto, filtro. Tutto lo staff del centralino che hanno una grandissima pazienza e disponibilità con i nostri ascoltatori. Mirko Mion. Che andando a rogitare a seconda poi del giorno esatto ha già rogitato fine novembre, ha già fatto, sì. fine novembre, quindi dovrà andare perché a pagare siamo in dicembre per la... Mione, le do questa notizia oggi è il 6 sì. Stavo ragionando ancora sulla questione precedente dove volevo puntualizzare che adesso provenendo... no, era soltanto così la vostra puntualizzazione è corretta, io arrivavo dal pensiero fossero ex coniugi, certo. quando ha sì, fatto sì, la sì, domanda, ma... perché stavamo arrivando da quel concetto e quindi era una mia precisazione. Ha sì. fatto bene. Rogitando a novembre dovrà, e portando chiaramente la residenza, il domicilio all'interno di questa abitazione, se la porta il domicilio e la residenza diventerà abitazione principale, non pagherà nulla. Se nel frattempo invece deve ancora trasferirsi, dovrà pagare IMU e TASI per la percentuale, diciamo, di proprietà, ecco. per il mese di novembre, se l'ha rogitato nella seconda parte di novembre, e per la parte di dicembre. Perché generalmente se uno fa un rogito e quindi finalizza una compravendita, non è detto che se anche quella diventa che la prima abitazione subito. Che ci entri subito e delega appunto la propria quindi residenza lì. Quindi noi consigliamo lì. A Rosa di accelerare il trasloco. Esatto, Rosa, se vuole noi l'aiutiamo. Ci mettiamo tutti a disposizione per infatti. Aiutarle, così risparmiamo questa mensilità di IMU mm-hmm. e TASI. Abbiamo allora, ancora Nazareno da Modena, ma non so se abbiamo il tempo materiale. Non credo che ce la fa. Leggila magari, leggila la domanda. Ci segnala che ha una sola casa a Roma ed è affittata, a Modena sta in affitto, cosa deve pagare? Secondo me se anche la sua dimora è altrove, cioè a Modena, sulla casa di Roma che ha peraltro affittato, deve pagare. Dario, credo che non ci siano dubbi su un caso del genere. Certo. Perché, come abbiamo chiarito prima, avendo addirittura affittato mm-hmm. la casa, il caso della casa inagibile l'abbiamo chiarito. Mm-hmm. Rosa ci manda un grandissimo esatto. grazie. E intanto allora... le vado a portare la nostra guida saldo, IMU e TASI, regole e calcoli, così stasera se lo legge con il suo fidanzato. Ricordati, cara Deborah, che domani, sì. anche se è la festa del patrono qui a Milano, noi siamo regolarmente ma in onda. Ma anche l'8 siamo qua, ma stai scherzando? Ma per noi non c'è mai festa. Poi c'è pure la rubrica di venerdì... C'è imposta per te, non me la potrei mai perdere. Domani parliamo del denaro e la tecnologia. Domani c'è Investire Informati, per cui vi aspettiamo. Grazie a tutti. E a risentirci. Buona giornata.